Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. C'è stato 3 o 4 anni fa un momento nel quale il fotovoltaico tradizionale, che è basato sul silicio, sembrava fosse destinato a essere soppiantato da una nuova generazione di moduli basati su materiali innovativi: telluro di cadmio, arsenuro di gallio, rame, indio, selenio con e senza gallio, e poi nanotubi, quantum dot, insomma chi più ne ha più ne metta. Di tutta questa vasta casistica, complice quasi certamente il crollo dei prezzi del fotovoltaico tradizionale, poco o nulla è arrivato sul mercato. Ma un concorrente del silicio ora sembra essere davvero in arrivo e risponde al nome di perovskite. Ne parliamo con il professor Aldo Di Carlo del Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell'Università Tor Vergata, il cui gruppo di ricerca detiene attualmente il record mondiale di efficienza per una cella fotovoltaica alla perovskite prodotta con tecniche industrializzabili. Poi capiremo anche perché questa distinzione. Buonasera Di Carlo. Buonasera a lei, salve. Allora, intanto ci spieghi che cosa sono queste perovskiti. In realtà perovskite è un nome generico che rappresenta un po' tutta una serie di materiali con una struttura cristallina ben precisa. In particolare per quanto riguarda appunto il fotovoltaico, si parla di perovskite ibrida, organica e inorganica, e sono, diciamo, strutture cristalline abbastanza complesse che sono state investigate già nel passato. IBM negli anni 90 ha cercato di costruire dei dispositivi elettronici con Perché è un semiconduttore, tanto per cominciare, come il silicio, no? Sì, è un semiconduttore come il silicio, e a differenza però del silicio ha delle proprietà ottiche, optoelettroniche, diciamo, molto interessanti, molto migliori, sì, esattamente. Ecco, ma che rocce sono? Sono delle rocce, no? È un materiale minerale. La perovskite, diciamo, quella originale da cui prende il nome appunto questa classe di composti cristallini, è un minerale, esattamente. Questa che noi realizziamo, che viene realizzato per il fotovoltaico, è un composto artificiale che viene realizzato attraverso dei passi ad hoc, naturalmente. Molto semplici, peraltro. Ecco, ma perché questi materiali perovskiti sono preferibili al silicio? Sì, proprio perché hanno sia delle proprietà ottiche notevoli, ma anche hanno la capacità di trasportare la carica molto, molto buona. Insomma, questa capacità è sicuramente migliore dei materiali organici di cui parlava lei prima. Per cui sono dei materiali che possono essere deposti sotto forma di soluzione, per cui sono degli inchiostri alla fine, ma hanno anche allo stesso tempo delle proprietà elettroniche, optoelettroniche notevoli. Se ho capito bene, uno dei vantaggi è che lavorare questi composti richiede poca energia. Uno dei problemi dell'industria, diciamo, del silicio, del fotovoltaico, è che lavorare il silicio è estremamente dispendioso dal punto di vista energetico. C'è questo aspetto? Sì, assolutamente. Fare dei lingotti di silicio è necessario appunto delle fonti energetiche notevoli, mentre realizzare dei film sottili con le perovskite è assolutamente semplice, perché si arriva al massimo a temperature dell'ordine dei 60-70 gradi. Insomma, ben lontani dalle centinaia e centinaia necessarie a fondere il silicio. Senta, veniamo al vostro lavoro. A ottobre avete pubblicato un articolo importante su Progress in Photovoltaics. Quali sono i risultati più importanti di questa ricerca e gli aspetti, insomma, più innovativi? Sì, diciamo che tutto il mondo sta lavorando nello sviluppo, nell'aumento dell'efficienza delle perovskiti, nell'ottenere appunto celle fotovoltaiche. Quello che abbiamo fatto, abbiamo sviluppato una parte un po' più, diciamo, ingegneristica del processo. Abbiamo cercato di portare su larga area, di fare uno scaling up della tecnologia del fotovoltaico con perovskite per realizzare appunto i primi moduli a perovskite. E questo l'abbiamo fatto appunto utilizzando le varie tecniche convenzionali, vorrei dire, che vengono utilizzate comunemente nel fotovoltaico, e abbiamo appunto realizzato un modulo con diverse celle connesse in serie su un'area di circa 10 cm quadrati, ottenendo delle efficienze che ad oggi sono ancora il record mondiale del 13%. Ecco, 10 cm quadrati possono sembrare pochi, ma in realtà è la dimensione, diciamo, alla quale bisogna arrivare per poter pensare di scalare industrialmente. Prima si arrivava a pochi millimetri quadrati, non c'erano procedure in grado di fare celle così grandi. Sì. È questo, no, il punto? Sì, quello che si fa di solito è un processo del genere. Prima si si ottimizzano i materiali su, certo, con delle, su delle aree molto piccole, poi si, si scala il processo su aree che sono di interesse industriali. Ecco, noi abbiamo fatto questo passo, siamo passati appunto a 10 cm quadrati, ma adesso già nei nostri laboratori abbiamo dei moduli da 100 cm quadrati con efficienze che sono intorno al 10%. Quindi ecco, sono efficienze assolutamente interessanti, sono superiori, tanto per dire, dello stesso ordine di grandezza del cosiddetto silicio amorfo che esiste ormai da tantissimi anni. Sì. Giustamente, infatti il silicio amorfo è un punto di riferimento, avere delle efficienze su larga area maggiore di quello del silicio amorfo significa che una tecnologia diventa impattante per il tutto certo, il fotovoltaico. Certo, certo. Grazie, grazie Aldo Di Carlo. La saluto, salve, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.